attorno al gruppo Leonardo è stata formata una fondazione, MEG-OR, ex Finmeccanica, ed è una fondazione che raccoglie il gota dei manager del settore industriale, industriale militare, dei sistemi di sicurezza, i dirigenti politici che hanno lavorato per anni sulla geopolitica del Medio Oriente in stretto rapporto con Israele. La guida del Leonardo Medore è affidata all'ex ministro degli interni Marco Minniti, e questa fondazione è la spalla culturale di Leonardo, lavora attorno formalmente a progetti culturali, interscambi e via dicendo. Nei fatti tutto è concentrato su quello che viene definito sicurezza, assetto geopolitico e quindi questioni militari, strumenti di attacco e di difesa. E la cosa grave è che all'interno di questa struttura vi sono importanti rappresentanti del mondo universitario. Ecco, allora noi come docenti universitari riteniamo che il ruolo dell'università debba essere diverso. Deve essere quello di costruire ponti tra una nazione e l'altra, ponti però fondati sulla ricerca della pace, dell'equilibrio, della giustizia sociale e della ricerca in ambito scientifico per promuovere i progressi di tutta l'umanità. Per esempio ponti per costruire collaborazioni in ambito medico, in ambito scientifico, e non per costruire collaborazioni invece su sistemi d'arma sempre più distruttivi. Il rischio appunto che l'università si pieghi poi appunto all'industria bellica. Sì, questo non è un fenomeno nuovo. Purtroppo l'università diventa sempre più supina ai desideri del settore industriale con cui entra in contatto. Questo avviene in tutti gli ambiti, avviene anche nell'ambito specifico di cui mi occupo io, che è la medicina. La cosa diventa ancora più grave è quando la subalternità è rispetto alle industrie e al complesso perché allora si studia per che cosa? Per cosa finanziamo le università? Per cosa istituiamo le borse di studio? Con quali occhi guardiamo e cerchiamo di dare suggerimenti alle giovani generazioni? Che ruolo educativo e pedagogico svolge l'università in questa direzione? Che esempi danno quei professori, quei rettori che sono coinvolti in progetti di questo tipo? Noi chiediamo una cosa molto semplice, e cioè che i professori e i rettori delle università che sono coinvolte in questo progetto si dimettano, escano da questa fondazione. Noi pensiamo che il primo compito dei rettori e dei professori sia il rispetto dell'articolo 11 della Costituzione italiana, dove l'Italia ripudia la guerra, e quindi il rispetto di codici etici, bagaglio culturale educativo degli atenei. Noi pensiamo che non sia compatibile una collocazione di chi ha ruoli importanti nell'università in progetti di questo tipo. Ovviamente non stiamo sollevando un problema di tipo legale, stiamo sollevando un problema di tipo etico e di opportunità. Oltre a questo ci sono altri appelli che segnalano anche una presa di posizione del mondo universitario, in particolare altri due, Vittorio. Sì. Finalmente, diciamo, il mondo universitario si muove. C'è un appello da parte di 4.000 colleghi delle università per chiedere un'urgente azione per un cessate fuoco immediato rispetto del diritto umano internazionale, e in particolare si chiede anche l'interruzione immediata delle collaborazioni tra le istituzioni universitarie italiane e le università israeliane fino a quando non sarà ripristinato il diritto internazionale e umanitario. Noi sappiamo che gran parte della ricerca universitaria israeliana è finalizzata a sistemi di sicurezza, produzione di armi, sappiamo che sono inserite all'interno di un paese che in questo momento sta compiendo un massacro di persone civili e di migliaia di bambini. Noi chiediamo che l'università si assuma la sua responsabilità e interrompa questo le collaborazioni con l'università israeliana, in particolare in quelle che sono coinvolte nell'apparato militare. C'è poi un terzo appello a cui io do estrema importanza, perché è lanciato da 2000 e più operatori sanitari, medici, infermieri, e chiedono l'immediata blocco del massacro di civili a Gaza e la costruzione di corridoi umanitari nei quali far passare cibo e far passare soprattutto medicine e strumenti sanitari. La situazione diventa sempre più drammatica, gli ospedali non vengono rispettati, vengono bombardati, mancano farmaci, mancano strumenti di qualunque tipo, si rischia di dover interrompere tutte le cure e quindi anche per esempio di condannare a morte decine di neonati che sono in questo momento in incubatrice. Come medici ci assumiamo la responsabilità di chiedere al nostro governo di intervenire sul governo di Israele, non a fornire armi ma a chiedere corridoi umanitari per cibo e farmaci. Ecco, questi tre appelli sono fortemente collegati fra di loro, è un atto di responsabilità che si assumono professori universitari, docenti, intellettuali e medici, è la società civile che si muove e devo dire non di fronte all'inerzia del governo ma di fronte invece a un governo che agisce nella direzione esattamente opposta, cioè continua a produrre, a vendere armi e appoggiare il massacro che si sta compiendo in questo momento a Gaza senza muovere un dito.